Io non so cos'è per sempre, posso dirti cosa so. So che vivo nel presente, nel futuro morirò. Forse a casa, forse strada, non mi importa. Voglio amici al funerale, mica stronzi sulla porta. Per quanto ho perso, penso che c'è un senso certo. Ho sofferto, ho aperto il cuore, l'ho protetto. Odio amore, ho promesso a me stesso soluzioni a problemi. Ti prometto che entro l'anno svolto, l'ho detto pure ieri. Mi hanno detto sei il migliore, poi per mettermi da parte, farmi spazio e dopo perderlo, riprenderlo, riperderlo. Dondolare sulla strada titubante come un pendolo. Mi sto perdendo. Non comprendo questa vita, ma la capisco in parte. Già da piccolo capivo che dormivate troppo. Tu fai un balzo sulla luna, io arrivo a Marte. Sono sveglio ormai da tempo, ora non dormo. Se non ci sarà un domani, tu sollevami le mani. Yeah, man.